stato di spavento è naturale, è l'uomo un animale socievole fatto per la compagnia. Oddio! Corre su, coraggio, oh capitano, fai il tuo baccano, fai il tuo rumore, oltre a tirare. Oddio, parli mio dir. No,